scatole con dentro le fotografie. Ci ho messo dentro una lettera, è quella che mi hai scritto tu. Qui prima c'era una casa e adesso non c'è più.